La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 5 dicembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. In queste settimane abbiamo sentito parlare moltissimo di vaccini, ma soprattutto l'attenzione si è focalizzata sul vaccino della cosiddetta pandemia AH1N1. Quest'oggi ne parleremo col professor Giuseppe Dal Giudice, direttore di ricerca presso l'Istituto di Ricerche Novartis Vaccini di Siena. Buongiorno professor Dal Giudice. Buongiorno. Professor Dal Giudice, noi all'inizio abbiamo quelle 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione, ormai è una cosa abbastanza nota ai nostri radioascoltatori. In 100 parole le voglio chiedere, che cos'è un vaccino? Beh, un vaccino è una sostanza, una serie di sostanze che vengono isolate da un microorganismo, virus o batterio, che una volta inoculate nel soggetto umano inducono degli anticorpi, inducono una risposta che fornirà una protezione contro il batterio, il virus, da cui questa sostanza, queste sostanze sono state isolate. Perfetto professore Dal Giudice, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte focalizzeremo l'attenzione sulla storia dei vaccini, quindi come sono composti e come sono nati, e nella seconda parte della trasmissione parleremo fondamentalmente del vaccino di AH1N1. Can anybody see my real face? Can anybody see my soul on fire? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness. Can anybody see my real blood? Does anybody know my real worth? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness. Convertir su fuerza en su propia desventaja. Convertir tu ritmo en una auténtica amenaza. Que sea tu mente la más fuerte de las armas. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Guayo, guayo, guayo, guayo, ser como el agua también, ya lo dijo el maestro, be water my friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también, ya lo dijo el maestro, be water my friend, yeah. E bentornati in studio, cari radioascoltatori. Abbiamo ascoltato un pochino di musica e adesso siamo di nuovo ritornati in studio per parlare fondamentalmente di vaccini, uno degli argomenti che abbiamo trattato in coda dell'anno scorso di Caccia al Fotone. E ne stiamo parlando col professor Giuseppe Dal Giudice, direttore di ricerca presso l'Istituto di Ricerca del Novartis Vaccini di Siena. Professor Dal Giudice, cerchiamo di fare una storia dei vaccini. Effettivamente, quando sono nati i vaccini, cioè quando è nato questo metodo per poter prevenire un'infezione che sia globale? Ma la ringrazio per questa domanda che è molto complessa. La storia dei vaccini è una storia formidabile dal punto di vista della ricerca scientifica, che nasce già nel Settecento in Inghilterra, quando il dottor Jenner sviluppò il primo vaccino contro il vaiolo. Il vaccino viene appunto da vacca, latino vacca, mucca, e quindi da cui veniva, lui isolava il materiale virale, che era un virus attenuato, e lo inoculava nei soggetti sani, che in questa maniera erano protetti contro il vaiolo. È una storia, diciamolo pure, gloriosa, che però dovete aspettare fino alla fine dell'Ottocento, quando Louis Pasteur a Parigi, in maniera più sicuramente scientifica, applicando proprio un metodo sperimentale, poté dimostrare che dei virus, per esempio il virus della rabbia, dopo vari passaggi in colture cellulari in vitro, perdeva la sua virulenza e poteva essere inoculato in soggetti, e in questa maniera queste persone venivano protette contro la rabbia. La storia è continuata e nel Novecento ci sono stati passi da gigante, dalla scoperta delle tossine batteriche, della maniera di attenuarle, di rendere innocue, quindi non tossiche, e queste tossine fu scoperto proprio da persone che poi ricevettero il premio Nobel. Mi riferisco a von Behring in Germania, per esempio, ma anche ad altri, chi è stato in Giappone ed altri ancora, che scoprirono proprio che inoculando queste tossine inattivate si inducevano anticorpi, quindi delle armi che neutralizzavano poi la tossina tetanica, per esempio, la tossina difterica, e proteggevano. Questi sono principi che servono ancora adesso per sviluppare i nuovi vaccini. Durante il secolo scorso si è visto lo sviluppo di un numero molto elevato di vaccini, e l'effetto di questi vaccini, che possiamo definire tradizionali, è stato semplice, lo possiamo vedere nelle statistiche. Il vaiolo è stato debellato, non c'è più vaiolo. La poliomielite la si sta debellando, praticamente i casi di poliomielite si vedono solo in India e in Nigeria, e sporadicamente in altri paesi africani, però dall'Europa, dalle Americhe, dall'Oceania è stata completamente eradicata, e il numero di casi di tetano, di difterite, si è ridotto significativamente, anche del 99,99%, così pure di altre malattie contro i quali c'è un vaccino che viene utilizzato, se viene utilizzato in maniera sistematica. Mi riferisco alle nostre latitudini, al morbillo, alla pertosse, mi riferisco alla parotite, eccetera eccetera. Quindi i progressi si stanno facendo, si stanno continuando. Il vaccino è un ingrediente, un armamentario nella farmacopea che è molto attivo, e che è non solo ha il beneficio di proteggere la gente che lo assume, ma ha anche questo effetto socialmente utile di impedire che le persone, dopo essere state vaccinate, possano diffondere l'infezione ad altre persone. Professore, la interrompo un attimo, perché lei ha parlato un pochino di storia, ha parlato un pochino di quali sono i vaccini che hanno curato le varie malattie nel corso della storia. La domanda però è un'altra: i vaccini rispetto a prima sono diversi? Prima si facevano vaccini diversamente da come si fanno oggi, e se si facevano in maniera diversa, in che modo si facevano in maniera diversa? Allora, lei tocca un punto fondamentale e sono lieto che lei sollevi questa domanda. Per brevità non sono andato nei dettagli della produzione, della preparazione dei vaccini. Un tempo i vaccini si facevano, per esempio, inattivando, uccidendo i batteri, i virus con sostanze chimiche o con metodi fisici e poi questi vaccini venivano inoculati. Questi vaccini potevano indurre effetti collaterali che in quegli anni venivano, non si potevano evitare perché non si conoscevano altre metodologie di preparazione di vaccini. I vaccini che vengono preparati oggigiorno sono vaccini altamente controllati, sono vaccini altamente purificati, cioè contengono molecole altamente pure che sono solo quelle molecole che indurranno la risposta immunitaria. Quindi da questo punto di vista i vaccini che vengono prodotti oggi sono vaccini significativamente più sicuri, che danno significativamente meno effetti collaterali e che quindi sono molto meglio accettati dalla popolazione. Senta, abbiamo visto un pochino la storia dei vaccini, abbiamo visto come erano diversi i vaccini prima e come si sono modificati nel corso della storia. A questo punto cerchiamo di entrare un pochino nel dettaglio. Allora, si riesce a isolare un virus, si fa il vaccino, a quel punto bisogna vedere se questo vaccino funziona oppure no. Come funziona il test di sperimentazione sulla popolazione? Cioè, come si cerca di vedere se questo vaccino funziona oppure no? La cosa è relativamente, l'attività di prova clinica per valutare l'efficacia e la sicurezza del vaccino è molto ben standardizzata, ci sono delle regole stabilite a livello internazionale e che bisogna rispettare in maniera molto stringente. Quindi quello che si fa è che si lavora in doppio cieco, quindi non solo chi dà il vaccino ma neanche chi lo riceve è a conoscenza del vaccino che riceve, se c'è il vaccino o se c'è quello che si chiama il placebo, per esempio. Non solo, ma il produttore di vaccino non è mai il responsabile del trial clinico, dello studio clinico. Il responsabile è sempre un investigatore indipendente, quindi che viene fuori da università, da centri clinici specializzati nello studio e nella valutazione dei vaccini. E poi i dati, quindi c'è un numero congruo di soggetti che viene vaccinato in ogni braccio, quindi dello studio, perché ogni studio può avere più bracci, per esempio se si vuole valutare dosi diverse di vaccino, se si vuole valutare la presenza di adiuvanti, queste sostanze che servono a aumentare la quantità e migliorare la qualità della risposta protettiva, se si vuole fare per esempio lo studio nei bambini rispetto agli adulti, rispetto agli anziani e quant'altro. Quindi una volta i numeri anche non vengono decisi a casaccio, i numeri da inserire in ogni braccio dello studio clinico vengono concordati con biostatistici sulla base delle ipotesi a cui si vuole dare una risposta e vengono concordati anche con le agenzie regolatorie, cioè quindi con quelle agenzie, con quegli istituti nazionali o sovranazionali che poi registreranno il vaccino, perché il vaccino poi verrà utilizzato in questi paesi. Questo è successo e potremo toccarlo più in là per il vaccino contro la pandemia, ma è quello che succede per tutti gli altri vaccini. Stiamo studiando dei vaccini contro il meningococco diversi da quello che ho accennato prima e quindi tutti questi parametri, tutte queste variabili vengono discusse precedentemente in modo che i dati siano scientificamente rigorosi. Professore Da Giudice, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi quando torneremo in studio parleremo specificatamente del vaccino sulla pandemia. bentornati in studio, cari radioascoltatori. Siamo finalmente di nuovo insieme per poter parlare del vaccino. A questo punto parleremo quindi del vaccino della pandemia, che è la cosiddetta AH1N1, quella che abbiamo sentito parlare sia sulle radio sia in televisione e anche qui nell'ultima trasmissione di Caccia Fotone, in cui abbiamo analizzato un pochino come si poteva diffondere la pandemia qui in Italia. Cerchiamo un attimo di capire il vaccino, come è stato creato. Io ho chiamato voi fondamentalmente perché uno dei due vaccini che sono utilizzati in Italia è il Focetri, avviene prodotto direttamente da voi. Come è composto questo vaccino? La ringrazio della domanda. Questo vaccino, il vaccino contro il virus AH1N1 che sta causando questa pandemia, è prodotto, è composto dagli stessi ingredienti che sono presenti nel vaccino influenzale stagionale. Mi spiego meglio. Per fare questo vaccino, che lei giustamente ha chiamato Focetri per individuarlo, si è praticamente seguito la stessissima procedura, identica e precisa, che si segue ogni anno per produrre il vaccino stagionale. Il vaccino stagionale consta di 3 ceppi virali, da cui si isolano 2 molecole, sono la emoaglutinina, la neuraminidasi, quelle che indurranno la risposta protettiva contro l'infezione influenzale, quindi 3 ceppi. Per il Focetri si è preso la stessa roba, quindi l'emaglutinina e la neuraminidasi, che questa volta però sono state purificate dal ceppo AH1N1 pandemico, quindi non si è in qualche sorta inventato nulla, si è applicato a questo nuovo ceppo virale la stessa tecnologia, gli stessi concetti di quello che viene fatto stagionalmente. In più, in questo vaccino è stato aggiunto, come anticipavo prima quando si parlava in generale dei vaccini, un adiuvante. Questo adiuvante si chiama MF59, l'adiuvante è una sostanza, come accennavo poc'anzi, che serve ad aumentare significativamente la risposta immunitaria, la risposta anticorpale protettrice, e anche cambiarne in meglio la qualità, in modo tale da conferire una migliore e più prolungata protezione. Questo adiuvante, anche qui non c'è niente di nuovo sotto il sole, questo adiuvante fu scoperto, introdotto in un vaccino stagionale in Italia prima e poi in svariati altri paesi già nel 1997, quindi sono già 13 anni quasi che abbiamo esperienza, non solo noi ma anche le persone che lo prendono, di questo vaccino, di questo adiuvante. Ora, questo vaccino stagionale è stato già dato in così tanti soggetti, in più di 45 milioni di soggetti, per cui è un ingrediente, una sostanza di cui conosciamo non solo noi ma tutta la letteratura scientifica conosce sia la potenza dal punto di vista dell'efficacia del vaccino sia dal punto di vista della tolleranza. Quindi in generale il vaccino Focetri è identico e preciso al vaccino stagionale, l'unica cosa in cui che è cambiata è le molecole, che questa volta vengono dal virus pandemico anziché venire da quello stagionale. Non solo, ma il Focetri rispetto allo stagionale contiene anche meno antigene, meno molecola, perché grazie all'adiuvante se ne può mettere meno, e mettendone meno si riesce sempre a indurre protezione e si riesce quindi ad aumentare di 2 o 4 volte il numero di dosi che saranno disponibili in Italia o negli altri paesi in cui noi questo vaccino lo distribuiamo. Senta, prima quando le ho fatto la domanda sulla sperimentazione di questo vaccino abbiamo parlato fondamentalmente del doppio cieco. Una domanda però non le ho fatto prima e le faccio ora: quanto tempo ci vuole per sperimentare un vaccino prima che arrivi sulla popolazione? Dipende di quale vaccino si tratta, dipende dal numero di dosi che bisogna dare e dipende dal tipo di monitoraggio che bisogna fare. Allora, per certi vaccini che sono completamente nuovi c'è da aspettare anni. Per un vaccino come questo, in cui tutti gli ingredienti sono già noti, arcinoti, si può aspettare meno. Quindi quello che si fa di solito è molto semplice. Uno si decide quante dosi bisogna dare. Noi all'inizio, noi come mondo scientifico, nessuno sapeva di quante dosi ci sarebbe stato bisogno. Ora si sa che è una dose sola, quindi si dà una iniezione, si aspetta 3 settimane dopo, si prende il siero e si valuta l'efficacia, quindi la capacità, quindi gli anticorpi che sono attivi, che neutralizzano il virus, e poi si osserva se ci sono effetti collaterali a breve termine o a medio termine. Quindi noi però sapevamo già che tutti gli ingredienti che compongono questo vaccino hanno un profilo di tolleranza eccellente, quindi da questo punto di vista l'analisi è stata sicuramente agevolata. Senta, le voglio fare un'ultima domanda, visto che siamo ormai in coda della trasmissione. Il motivo per cui questo vaccino viene, come dire, consigliato a tutti i soggetti a rischio è perché questa malattia, questa semplice influenza, non è diventata una semplice influenza normale che colpisce qualcuno, ma è diventata una pandemia, quindi è diventata un qualcosa di globale. Come ha fatto a diventare una semplice influenza una pandemia? Cioè, come è diventata H1N1 da influenza normalissima ha un'influenza che si è diffusa su tutto il globo? Ecco, allora l'H1N1 di cui parliamo ora è un H1N1 di origine suina. Nel vaccino stagionale trivalente, quello di cui parlavo prima, c'è già un H1N1, però è di origine umana. Ora, i due virus, quello di origine umana e quello di origine suina, non sono hanno poche omologie, va bene? Quindi vuol dire che gli anticorpi che sono diretti contro il virus H1N1 umano non neutralizzano, non sono attivi contro il virus di origine suina. Quindi cosa è successo? Quando in Messico, negli Stati Uniti, poco importa dove, però sicuramente al continente nordamericano, questo virus ha fatto un salto di specie passando dal maiale all'uomo, ha trovato terreno fertile per diffondersi perché i soggetti umani non avevano una immunità, non erano immuni quindi contro questo virus, perché non c'erano grosse similitudini tra questi due. Cosa vuol dire quindi? Che non essendo la popolazione protetta immunologicamente attraverso esperienze di infezioni pregresse o attraverso storie vaccinali precedenti, questo virus si è trovato in un terreno molto fertile in cui poteva facilmente passare da un soggetto all'altro. Quindi questo ha fatto sì che questo virus si diffondesse, poi grazie anche agli aerei, ai viaggi intercontinentali e tutto, molto rapidamente. Questa è un po' la storia di tutte le pandemie, cioè quando il virus influenzale subisce delle variazioni molto importanti e fa questo salto di specie, quindi che può essere dal maiale all'uomo o dagli uccelli all'uomo. Non dimentichiamo, tra parentesi, che l'influenza aviaria c'è sempre, quel virus da H5N1 di cui ora si parla così poco e che continua a mietere vittime in Egitto e in Indonesia. Quindi quando c'è questo salto di specie, una mutazione maggiore, questo nuovo virus si ritrova in una popolazione immunologicamente vergine e quindi può diffondersi e quindi rapidamente indurre quello che è appunto pandemia, quindi questa diffusione a tutti i continenti.